Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Io sono sempre rimasto molto legato all'Italia, però l'Italia, sono andato via, sono 15 anni, però ho sempre avuto il desiderio di poter contribuire, ma l'Italia comunque è stato sempre tradizionalmente un sistema chiuso, quindi le possibilità sono state molto poche di poter contribuire. Quindi questo progetto di Messaggeri della Conoscenza è un esempio molto chiaro di apertura del sistema italiano che mi permette di contribuire, di poter contribuire come ho sempre desiderato fare. C'è un ritorno in Italia nel tuo futuro professionale? È un'idea che sto accarezzando sempre di più. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Domenico Giannone, 40 anni, professore di economia alla Libera Università di Bruxelles, tornerà per 3 mesi questo autunno in Italia grazie al programma ministeriale Messaggeri della Conoscenza. Per lui è pronta una cattedra temporanea all'Università Federico II di Napoli. Abbiamo scelto la sua testimonianza per aprire la puntata. Quale segnale di speranza di un'Italia oggi all'estero che non si rassegna al declino del paese e fa il possibile per riconnettersi attivamente ai giovani ancora in patria. Oggi si chiude il ciclo invernale di Giovani Talenti che a giugno cambierà format focalizzandosi quasi interamente sulle storie dei nostri espatriati. La frase della settimana è copyright di Marco Piovani, ingegnere padovano di 28 anni, emigrato a Sydney. In un'intervista al Gazzettino ha dichiarato: l'Italia è un villaggio turistico dove i politici sono gli animatori. Ai miei coetanei consiglio di andare via, ma solo se ciò è finalizzato a raggiungere qualcosa di più grande rispetto a quanto qui non raggiungerebbero mai. È il caso del protagonista della puntata di oggi. Chi emigra è un ribelle e non accetta le condizioni in cui vive. Andrea Barizza, 26 anni, assistente di direzione alla Dresdner Philharmonie in Germania. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Canada, Germania e Australia sono i paesi con i mercati del lavoro ritenuti più attrattivi dai ventenni italiani, la generazione Y, secondo le anticipazioni di una ricerca Istud. I giovani, soprattutto i laureati, appaiono disponibili a un'esperienza all'estero. Nella classifica delle destinazioni ci sono anche Turchia, Cina, Malesia, Corea del Sud e Polonia. Un under 40 italiano su due è pronto a espatriare per motivi di lavoro, lo afferma un sondaggio Coldiretti SVG. Il 73% dei giovani ritiene che l'Italia non possa offrire un futuro contro il 20% di chi ha una visione positiva. Alto il grado di insoddisfazione anche tra chi già lavora, scarso pagamento, zero prospettive di crescita. Ben il 77% dei giovani occupati pensa di cambiare lavoro. E secondo Save the Children, un ragazzo su 4 in Italia dichiara che il lavoro dei sogni potrebbe richiedere il trasferimento all'estero. In Polonia, secondo una recente inchiesta del quotidiano La Repubblica, si è formata un'enclave di giovani laureati italiani. La città di approdo più gettonata è Breslavia, Wrocław. La nostra comunità monta a 2.500 giovani ad attenderli i lavori presso importanti multinazionali. E noi lanciamo un appello ai nuovi emigranti in Polonia: raccontate le vostre storie a giovanitalenti@radio24.it. E intanto il ministro dell'economia polacco Janusz Piekoczynski lancia un appello. La Polonia è un paese con solide basi economiche, i giovani europei sono benvenuti, contribuiscono col loro talento al dinamismo della nostra economia. Anche il Brasile affila le unghie nella competizione globale per i talenti. Secondo alcune anticipazioni, il governo carioca potrebbe spalancare le porte a 6 milioni di laureati stranieri. Servono ingegneri civili, chimici, architetti, medici e infermieri. Gli immigrati in Germania sono sempre più qualificati, persino più qualificati degli stessi tedeschi. Lo rivela la fondazione Bertelsmann, secondo cui il 43% dei nuovi arrivati può contare su un diploma di laurea o un equivalente titolo di formazione tecnica o professionale. E proprio la Germania, secondo il ministro degli interni Hans-Peter Friedrich, deve agevolare l'immigrazione dai paesi mediterranei dell'Eurozona. La corruzione di un paese aumenta il tasso di fuga dei cervelli. Queste nazioni sono condannate ad assistere all'emigrazione delle menti più brillanti, spinte a trovare un lavoro adeguato e ben retribuito nei paesi in cui la meritocrazia ha la meglio su bustarelle e raccomandazioni. Lo afferma uno studio condotto da Andrea Ario e Mara Pasqua Maria Squicciarini dell'Università Cattolica di Lovagna. Il futuro è nero per i giovani europei e a guidare la classifica del pessimismo sono i giovani italiani. Secondo l'ultimo studio Gallup, il 92% di loro è convinto che avrà meno possibilità di un lavoro sicuro rispetto ai genitori, contro il 78% degli spagnoli e il 71% dei francesi. Ma c'è una buona notizia: il vertice europeo di fine giugno avrà al centro il tema dell'occupazione giovanile, a confermarlo il presidente del Consiglio europeo Van Rompuy, acconsentendo alla richiesta del premier italiano Enrico Letta. Il 3 luglio vertice straordinario a Berlino dei ministri del lavoro, mentre Francia e Germania hanno lanciato martedì una New Deal per i giovani disoccupati. Commenta il presidente dell'Europarlamento Martin Schulz: in Europa c'è una generazione che sta diventando perduta, forse la meglio educata nella storia di alcuni paesi quali Spagna, Grecia e Italia. E il governo italiano metterà a punto proprio entro giugno un pacchetto articolato per l'occupazione dei giovani, il ministro del lavoro Enrico Giovannini. L'obiettivo di sviluppare entro il mese di giugno, in occasione del Consiglio europeo di fine giugno, un pacchetto complesso, articolato, che riguarda sia la dimensione europea sia la dimensione nazionale per l'occupazione giovanile. Quasi un giovane su quattro è a casa, senza lavoro e prospettive, lo denuncia il rapporto annuale Istat. A pagare il prezzo più alto sono gli under 30, ben 2 milioni e 250 mila non lavorano né studiano, nel giro di un solo anno sono aumentati di quasi 100 mila unità. Sempre per l'Istat, solo il 57% dei giovani laureati o diplomati lavora entro 3 anni dalla conclusione del percorso di formazione. L'obiettivo europeo per il 2020 è fissato all'82%. Abbiamo 3 milioni di disoccupati, ma quello che è più grave è che il 40% dei giovani è senza lavoro. Molti hanno smesso di cercarlo. Siamo in una situazione disperata, rischiamo di perdere una o due generazioni di giovani. Così il presidente di Confindustria, Giorgio Squinzi. Per Squinzi l'Italia è un paese senza materie prime e con infrastrutture scassate. L'unica cosa che abbiamo è la materia grigia, che è di assoluta qualità. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Germania, paese che nel solo 2012 ha attratto ben 42.000 connazionali, con un incremento del 40% rispetto all'anno precedente. Stiamo diventando un paese di giovani talenti col tedesco come seconda lingua? Nome: Andrea. Cognome: Barizza. Età: 26. Città di origine: La Spezia. Studi: musica e musicologia. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? In Germania. Perché? Perché in Italia non avevo prospettive. Quale lavoro svolge attualmente? Sono assistente alla Dresden Filarmonia. Dove? A Dresda. Tornerai? Per adesso non ho prospettive ancora. Il grande compositore tedesco Wilhelm Richard Wagner, con la sua cavalcata delle Valchirie, ci introduce alla storia di Andrea Barizza. Nel 2009 capì che la musica la dovevo fare e non lasciarla scritta sui fogli. Per questo frequentai, grazie a una borsa di studio, il prestigiosissimo seminario di Kecmet in Ungheria. 2 mesi a contatto con più di 100 ragazzi provenienti da tutto il globo. Ho conosciuto il mondo, quello vero, quello che c'è oltre le nostre convinzioni cieche fondate sull'inesperienza, e ho capito quanto siamo indietro qui in Italia. Tornato in patria, ho deciso di scappare. Andrea, abbiamo scelto di presentarti così, nel momento in cui hai fatto la scelta che ha cambiato la tua vita, e ti chiedo provocatoriamente: siamo un paese così provinciale al punto che un giovane deciso a realizzarsi può solamente andarsene? Ho pensato per molto tempo questo, in realtà oggi non lo penso più, penso che noi come popolo, come nazione siamo provinciali, ma non siamo più provinciali degli altri. Però per capire questo bisogna andare all'estero, bisogna conoscere il mondo, conoscere le altre culture e capire da dove veniamo. Riavvolgiamo il nastro della tua storia, partiamo da lontano, dal liceo classico, che hai odiato, così hai confidato a giovanitalenti@radio24.it. Perché? Qual è la priorità della scuola italiana? Coltivare i talenti o qualcos'altro? Nella mia esperienza la scuola al liceo è stata abbastanza devastante, nel senso che si tendeva sicuramente verso il basso e non verso l'alto. Erano premiate le persone che facevano il compitino rispetto alle persone che avevano... Ai creativi. Esatto, cioè una linea logica più ampia, un pensiero in qualche modo più ampio. Io ti chiedo, la mancanza di meritocrazia comincia fin dai banchi di scuola? Io penso che sia un sistema educativo da rifondare. Penso che sia un sistema educativo da rifondare. Non è tanta questione di meritocrazia in sé, quanto un sistema educativo fondato non sull'elite in qualche modo, cioè sulle intelligenze, che è un principio condivisibile, però è un principio che porta poi a un azzeramento in qualche modo, a un appianamento delle menti. Come molti musicisti frequenti parallelamente il conservatorio, lì la situazione è persino peggiore e restituisce il quadro di un settore culturale in Italia dove tutto, a partire dalla formazione, appare come una folle gara a ribasso. Vi ho incontrato persone interessate solo a piccole beghe, piccolo potere interno. Nessuno dei docenti era lì con amore, mancava la qualità umana e professionale. Quei professori del conservatorio erano lo specchio di una parte della classe dirigente di questo paese, frustrata e netta? Io questo non lo so. Io so che ho incontrato delle persone che paradossalmente non amavano il mestiere che facevano, ed erano persone che non mi hanno trasmesso nulla. Molti dei miei colleghi, dei miei compagni hanno lasciato la musica, addirittura sono persone che odiano oggi la musica. Pazzesco, per l'esperienza veramente che hanno avuto in conservatorio. Naturalmente ho incontrato anche persone eccezionali, conosco persone, professori del conservatorio assolutamente eccezionali, però chiaro, la mia esperienza è stata un'esperienza non positiva. Tralasciamo anche il fatto che tu fin da studente con i tuoi colleghi hai addirittura messo in scena lo Stabat Mater, e poi il conservatorio se ne è preso i frutti quando l'iniziativa ha dato successo, ma più in generale si impone una riflessione: come si può uscire da un sistema educativo così mediocre, dove per un docente straordinario magari ce ne sono 5 incapaci? Vivendo qui io vedo cosa fanno qui, e qui è molto più semplice la questione. Non esistono graduatorie, non esiste nessun tipo di agevolazione in questo senso. Loro, i professori che vogliono fare professori, ogni anno, sino a un determinato punto di carriera ovviamente, hanno un esame, per cui i miei professori, che non sono tutti professori, sono docenti, ci sono tre gradi, alla fine dell'anno, dopo aver fatto l'esame a me, fanno l'esame loro con altri professori per essere riconfermati o essere eventualmente sostituiti. Andiamo ora avanti. Concluso il liceo, ti iscrivi alla Facoltà di Scienze Musicologiche di Cremona, un'esperienza che mi ha aperto la testa, rifletti a posteriori. Qual è il tuo personale voto all'Università Musicale Italiana, col senno di poi? Io penso che l'Università, insomma la Facoltà di Musicologia a Cremona, sia una delle poche eccellenze che abbiamo avuto, che abbiamo in Italia, anche perché è l'unica facoltà effettivamente di musicologia. Poi esistono il DAMS, eccetera, ma questa è l'unica che effettua esclusivamente studi musicologici, e per quella mia esperienza è stata un'esperienza positiva, assolutamente. In quegli anni accarezzi l'idea di divenire musicologo, apri anche una rivista di musicologia online, poi però l'esperienza in Ungheria, di cui abbiamo accennato, cambia la tua vita e per sempre. La Germania diviene il tuo primo mercato di ricerca di opportunità. Perché? Ho scelto la Germania per due motivi. Il primo, appunto, è il tessuto culturale, la figura anche del musicista, come viene percepita all'interno della società, e poi perché qui l'università costa 400 euro all'anno, per cui contro 40.000 dollari americani. In due settimane giri 12 città tedesche, fai audizioni preventive, studi il tedesco prima di affrontare un primo esame di ammissione a Francoforte. Lo passi, poi però si scopre che i posti non ci sono, finisci in crisi, vaghi due settimane in Sardegna, poi torni allo scoperto e prendi la decisione definitiva, andare a vivere a Berlino. Allora Andrea, perché chi emigra ha una marcia in più alla fine? Perché chi emigra è un ribelle e non accetta le condizioni in cui vive. Poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Passai da settembre 2010 al marzo 2011 facendo avanti e indietro da Berlino a Dresda. Una volta alla settimana a Dresda ero entrato in contatto con l'Hochschule, dove il rettore mi aveva messo nelle mani di un professore di direzione d'orchestra per la preparazione alla missione. Allora, vogliamo dire quale straordinaria esperienza di vita scaturirà da quell'incontro? È stato un incontro che mi ha cambiato la vita, perché questo professore è stato fondamentalmente uno dei pochi maestri che ho avuto nella mia vita. È stato molto duro all'inizio, molto molto duro, e mi ha fatto cambiare la testa, il modo di lavorare, il modo di ragionare, il modo di vivere anche la musica e la mia futura professione. Ti trasferisci a Dresda, passi l'esame unico su 70 candidati, tralasciamo l'apprezzamento che arriva dall'Italia, l'Università di Cremona ti dice non puoi essere iscritto a due facoltà, a quattro esami dalla fine del percorso devi rinunciare, ma io vado ancora più avanti perché nell'ottobre 2011 inizi il percorso di studio all'Hochschule, che ti dovrebbe portare tra un paio d'anni a conseguire il titolo di direttore d'orchestra. Allora, quale ambiente di studi straordinariamente diverso hai trovato ad accoglierti lì? Esattamente il contrario di quello che ho trovato in Italia, cioè un ambiente, perlomeno nella mia esperienza, un ambiente estremamente competitivo, un ambiente fatto di studenti che hanno voglia e di professori che hanno voglia di fare musica, di progetti, un ambiente internazionale, collegamenti straordinari con l'esterno, quindi con tutto il tessuto culturale che la città di Dresda e la Germania offre. E non finisce qui, nel maggio dello scorso anno arriva quella che definisci un'occasione irripetibile. Come divieni assistente al maestro del coro della Dresda Philharmonie? Perché il direttore principale aveva bisogno di un assistente per un progetto di un'opera italiana di Donizetti. Io sono stato inserito in questo progetto attraverso il mio professore, ho fatto il mio lavoro senza pensare a nient'altro che a fare appunto il mio lavoro. Alla fine del progetto, alla fine della settimana, dopo il primo concerto, il direttore principale si avvicina e mi chiede se avessi avuto voglia di lavorare ancora lì, insomma, alla Filarmonia. Io ho detto che non avevo nulla da pensare. L'ambiente musicale tedesco è competitivo, spietato, ferocemente meritocratico, però è in grado di offrire un tessuto culturale straordinario. Qual è il segreto della Germania sotto questo aspetto che ha permesso di rendere il musicista una figura sociale? La cultura popolare tedesca è più intrisa di musica rispetto alla nostra, e soprattutto c'è un rispetto di base verso la propria storia, che quindi porta alla conoscenza della propria storia e quindi anche alla conoscenza dei grandi musicisti, ad esempio, che noi non abbiamo. E poi c'è un lavoro di marketing delle istituzioni musicali tedesche che è fortissimo. Basta pensare all'immagine che loro danno dei Berliner Philharmonic, che sembra che sia una delle cose più importanti che esista al mondo. Domanda di rito, Andrea, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire? Secondo me non va la mancanza di controllo sulla qualità a tutti i livelli, dall'istruzione al lavoro. La proposta concreta è quella di mettere, che è irrealizzabile, ma insomma è quella di mettere obbligatoriamente un anno di Erasmus per tutti gli studenti. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Andrea Barizza, 26 anni, assistente al maestro del coro presso la Dresdner Philharmonie, nonché studente di direzione d'orchestra. Andrea vi approda dopo un percorso di studi tortuoso in Italia, tra un liceo incapace di valorizzare i giovani e un conservatorio con docenti senza qualità. La svolta arriva grazie a una borsa di studio che lo porta in Ungheria. Il confronto e la contaminazione con culture musicali diverse lo porta a prendere la decisione di emigrare in Germania. Passa l'esame di ammissione alla Hochschule di Dresda per studiare direzione d'orchestra. Contemporaneamente trova lavoro come assistente al maestro del coro. In Germania scopre un ambiente musicale solido dove si investe in cultura. In Italia invece siamo ancora all'anno zero. Ci raggiunge ora in linea Maurizio Roy, presidente della Fondazione Arturo Toscanini. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Maurizio Roy, la situazione dipinta da Andrea è grave, da mettersi le mani nei capelli. Sarò diretto: di chi è la colpa di questo disastro? Quale classe dirigente ha fallito con rischio di rendere l'Italia un deserto culturale? Una domanda un po' complessa. Diciamo che in Italia negli ultimi 20 anni la cultura è stata considerata pochissimo e ci sono stati pochissimi investimenti ed è ciò che viene tagliato regolarmente e in modo abbastanza diffuso. Ma la chiave vera è ciò che diceva prima Andrea. Il confronto tra l'Italia e la Germania è un tessuto culturale molto più diffuso in Germania, molto più al servizio e come prestazione per i cittadini, e una considerazione del lavoro artistico che da noi non c'è. Noi abbiamo un'idea celebrativa della cultura. Roy, Andrea nelle lettere che ci ha scritto parlava di un vero e proprio esodo di musicisti italiani che affollano i teatri tedeschi e di tutto il mondo. Dalla sua prospettiva, quanto è ampio questo esodo di professionisti della musica? Gli intellettuali, gli artisti italiani sono cosmopoliti da secoli, abbiamo fatto il mondo andando in giro proprio per la nostra inconsistenza nazionale del nostro Stato. Recentemente il fenomeno è molto forte, molti vanno in Germania a lavorare, molti cantanti, molti giovani, è molto diffuso. E vediamo ora la vostra esperienza in Italia. Vogliamo ricordare a chi ci ascolta cos'è la Fondazione Arturo Toscanini, di cui lei è presidente, e quali sono anche le vostre principali attività? Noi siamo un'orchestra, fondamentalmente siamo la fondazione che gestisce due orchestre, la Filarmonica Arturo Toscanini e l'Orchestra Regionale dell'Emilia Romagna. Siamo una banale orchestra regionale che ha una prospettiva internazionale, facciamo concerti sinfonici, facciamo opera, facciamo molta attività per i ragazzi. Facevamo anche un concorso per giovani direttori d'orchestra che purtroppo non è più finanziato e quindi non c'è più in Italia né il concorso Toscanini né il concorso Pedrotti. Questo per dare una risposta alla domanda su Andrea. Mai come prima l'estate 2013 si presenterà povera di spettacoli in Italia e in Emilia Romagna, in particolare nel meridione c'è ormai un deserto. Anche per un'orchestra come la nostra scendere sotto la linea gotica è quasi impossibile. Occorre richiamare Stato, regioni ed enti locali affinché non cancellino la vita culturale di questo paese. Lo scriveva lei in un recente articolo. La Germania, come ci insegna Andrea, fa della cultura un vero e proprio business, importando moltitudini di stranieri nei suoi teatri. È così difficile, le chiedo, far comprendere anche ai più ignoranti che di cultura si può mangiare? È difficile, perché abbiamo anche in questo caso, pensiamo che sia il turismo culturale ciò che si fa mangiare, ma è la produzione artistica, è l'artista, è l'arte e l'artista che crea il ritorno culturale e il ritorno economico, ed è importante farlo capire. Andrea, hai una domanda per Maurizio Roy? Cosa pensa sulla scelta politica di concentrare la maggior parte delle risorse su pochi grandi centri invece di privilegiare un tessuto più ampio che dia la possibilità a più persone di conoscere la musica? Io penso che la cultura è prima di tutto un servizio e quindi deve essere diffusa e non può essere concentrata solo in alcuni punti, e questo è una cosa che in Italia stiamo facendo ed è sbagliata. La lirica e il melodramma è diventato in Italia importante quando si faceva da Roncole a Busseto a Chiavari a Milano. Però il premier Enrico Letta un mese fa ha detto: se ci fossero ulteriori tagli alla cultura mi dimetterei. Allora quello che le chiedo è: c'è una richiesta che lei farebbe ora a questo governo in un momento così difficile, anche sotto forma magari di provocazione? Due cose precise: aumentare immediatamente il fondo unico dello spettacolo e mettere mano alla riserva di fondi versati dagli lavoratori artistici al loro fondo pensione per creare un sistema di protezione sociale per gli artisti, perché gli artisti sono lavoratori, vanno a fare la spesa anche loro. Grazie a Maurizio Roy, presidente della Fondazione Arturo Toscanini. E domanda diritto per Andrea Barizza: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando a un espatrio? Io gli direi di provarci, di non avere paura e di guardare indietro, di guardarsi indietro solamente alla sera prima di dormire. Torna la rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un ingegnere capo per Aker Solutions a Bærum in Norvegia, scadenza per i CV 31 luglio, info a akersolutions.com. Una consulente legale alla European Aviation Safety Agency, sede di Colonia, scadenza per i CV 7 giugno, info su easa.europa.eu. E infine uno scienziato specializzato in fisica delle particelle al CERN di Ginevra, Svizzera, scadenza per i CV 28 giugno, info a jobs.web.cern.ch. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova immigrazione professionale. Oggi avviamo una serie di interviste su 4 libri relativi al tema della nuova immigrazione e dei motivi che ne stanno alla base. Uno di questi è rappresentato dalle profonde e sempre più evidenti disuguaglianze sociali che aprono profonde faglie nel paese. Le denuncia proprio un giovane professore espatriato, già protagonista di Giovani Talenti, Emanuele Ferragina, autore del libro Chi troppo chi niente, docente all'Università di Oxford. Chi troppo chi niente ha lo scopo di riportare nel dibattito pubblico l'idea di uguaglianza, l'idea di uguaglianza che è stata sottratta al dibattito pubblico dopo il crollo dell'Unione Sovietica, e di riportarla attraverso la dimostrazione del fatto che rendere il paese più egualitario significa renderlo più efficiente. E una componente importante che soffre di questa mancanza di uguaglianza in qualche modo è quella dei giovani, fortemente penalizzati in Italia. Cosa emerge dalla tua ricerca? Quello che emerge dalla mia ricerca è che la nostra spesa sociale è completamente sbilanciata sugli anziani. Spendiamo il 57% della spesa sociale per le pensioni, non spendiamo nulla per le politiche che servirebbero ad aiutare i giovani. Mi riferisco al reddito minimo garantito, mi riferisco al sussidio universale di disoccupazione, ma mi riferisco anche a riforme più diffuse come quelle degli ordini professionali, nei quali spesso molti giovani non riescono ad accedere. La nostra trasmissione parla di giovani che emigrano. Quanto questa mancanza di uguaglianza, quanto queste disuguaglianze profonde sociali, quanto questo ascensore sociale bloccato determina l'emigrazione dei nostri migliori talenti all'estero? C'è una correlazione diretta nell'immigrazione dei talenti all'estero, cioè molte persone, a partire dagli architetti, ma qualunque altro tipo di professionista, emigrano perché in Italia non riescono ad entrare, a creare un portafoglio clienti, a poter fare la loro vita lavorativa anche attraverso un sistema competitivo di mercato. Ma il problema che sta diventando più grave oggi, del quale sentiamo molto parlare, è che c'è un esodo ormai generalizzato di molti giovani che, qualificati e non, partono per altri paesi per fare qualunque tipo di lavoro. Io, nella mia esperienza a Oxford e a Londra, non faccio altro che incontrare giovani italiani che lavorano in vari bar, caffè o qualunque altro tipo di attività commerciale. E all'estero cosa trovano? Sempre in tema di minori disuguaglianze, di maggiore merito anche se vogliamo, quali paesi trovano ad accoglierli? I paesi principali, penso ultimamente c'è stata moltissima immigrazione in Germania, perché comunque la Germania è uno dei paesi che sta facendo meglio, ma trovano principalmente due cose. Da un lato trovano un lavoro anche nei paesi anglosassoni, nei paesi scandinavi, ma dall'altro soprattutto trovano la possibilità di poter pagare la loro vita da soli, di poter riuscire ad avere una dignità anche attraverso lavori che magari non possono essere considerati di alta qualifica. In Italia è assolutamente impossibile costruire una vita indipendente, affittare una casa senza il sussidio dei genitori, quindi credo che sia un fatto principalmente di libertà, di opportunità. Chi troppo chi niente, perché l'Italia non può più permettersi i costi della disuguaglianza, di Emanuele Ferragina, edizioni Burr. Un motivo per restare o tornare. Cervelli in fuga, c'è anche chi prova a trattenerli. È il caso del responsabile della Breast Unit dell'ospedale di Cremona, Alberto Bottini, che ha letteralmente tolto la valigia di mano a due oncologi insieme a due biologhe, tutti laureati in Italia con specializzazioni a Oxford e Houston. Per non farli fuggire dal suo reparto, Bottini ha creato, grazie anche a una donazione privata, un laboratorio di terapia molecolare e farmacogenetica. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.sole24ore.com/blog/nava. Fino a giugno è aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa della settimana è Sì al merito. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective, ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di giugno è: si emigra sempre più in due o anche in tre o più ancora? Quanto sta diventando un discorso di coppia o di famiglia lasciare l'Italia e con quali perdite per il sistema paese si ha ad andarsene un pezzo di futuro giovane e qualificato? Raccontateci le vostre storie. Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati, potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. Finisce qui questa puntata di Giovani Talenti, aspetto dunque i vostri contributi via email e vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30 sempre su Radio 24 col nuovo format estivo di Giovani Talenti. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.